Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo della legge di stabilità, in realtà i vari emendamenti verranno esaminati tra pochi minuti, ma le votazioni sono previste, quelle più importanti, tra martedì e mercoledì sera. Nel giorno in cui però commenteremo anche come l'esecutivo abbia deciso di congelare la cosiddetta local tax, quindi la tassa che dal 2015 avrebbe sostituito IMU e TASI, perché c'era la forte possibilità che i comuni alzassero l'aliquota fino al 6 per mille dall'attuale 2,5 per mille. Il blocco certo che crea una incertezza sulle coperture, mancherebbero all'appello 625 milioni di euro che lascerebbero i comuni scoperti da questo punto di vista. Ne parleremo, dicevo, mentre sono in esame gli emendamenti. Alcuni hanno titolato i regali di Natale, ci sono delle cose più che legittime, ci sono delle proroghe, penso per esempio al miliardo di euro in 4 anni di sconto sulle accise del carburante per i camionisti, e ancora i 30 milioni di euro nelle casse dei comuni di Catania, Ragusa e Siracusa, ancora per far fronte ai danni del terremoto del 1990, qui un po' più inspiegabile come mai ci siano ancora 30 milioni di euro da dare a Catania, Ragusa e Siracusa. Poi 8 milioni di euro nel 2015 e poi 100 milioni nel 2016-2017 al settore lattiero-caseario per avviare la ristrutturazione della produzione, 30 milioni di euro per agevolare il traffico sullo stretto di Messina, non so bene in quale modo, 15 milioni all'anno per 10 anni alla linea Andora Finale Ligure colpita dalle recenti alluvioni. Tra l'altro sugli alluvioni vale la pena notare come oggi il Ministero dell'Economia e Finanze ha disposto in un decreto sostanzialmente che gli adempimenti e i versamenti tributari dei comuni colpiti dalle alluvioni nei mesi scorsi, e per cui è stata prevista la sospensione fino al 20 dicembre, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 22 dicembre prossimo. Ora, il tempo non è tantissimo, è chiaro che si tratta di sospensioni, non di annullamenti, però insomma la decisione arriva praticamente da tempo a una settimana per versare in un'unica soluzione tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti tributari per cui erano state decise le sospensioni in causa dell'alluvione. Di questo parleremo, parleremo poi come sempre di borsa. Allora, la borsa per quello che riguarda Milano, devo dire oggi la giornata inizia male, la settimana meno 2,30%, Parigi perde il 2%, Francoforte l'1,80%, Londra meno 1%, l'America meno 0,24%. Va bene oggi TOZ più 1,40%, Fiat, Chrysler più 1,1%, Saipem più 0,70% come la Popolare di Milano. Calo molto forte invece per le banche, e anche di questo parleremo, Monte dei Paschi meno 7,60%, Intesa San Paolo meno 4%, Unicredit meno 3,90%, Ubibanca meno 3%, e ancora il Banco Popolare perde il 2,90%. L'euro a quota 1,24,22, dicevo, calo oggi significativo per le banche. E notizie che arrivano, di cui parleremo praticamente nella seconda ora, dal fronte russo, nel senso che a nuovi record sia l'euro che il dollaro nei confronti del rublo. Il rublo ormai da inizio anno ha perso il 50% del suo valore. Parleremo anche del fenomeno non enorme ma interessante del cosiddetto reshoring, ossia delle imprese non solo in Italia, è iniziata in America, in Germania, poi anche in Gran Bretagna, delle imprese che riportano la manifattura in patria dopo averla portata all'estero. Ripeto, non è un fenomeno, però ci sono esempi concreti anche molto recenti di imprese che sono tornate a produrre nel nostro paese in parte o tutta la produzione, e cerchiamo di capire anche quale sia la dinamica e che cosa muove. Nel giorno in cui L'Istat ci fa sapere che le imprese specializzate nei settori tipici per il Made in Italy si concentrano in Romania con 47.000 addetti, in Cina 14.000, Sri Lanka 11.000, in Serbia 7.000. Sono praticamente le controllate italiane all'estero, con una dimensione media piuttosto interessante, 80 addetti, soprattutto se confrontata alla dimensione media delle imprese italiane, che non arrivano ai 4 addetti. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo dal petrolio, perché a contribuire, diciamo, alle difficoltà russe c'è anche un prezzo del petrolio, al di là poi di quello che è l'andamento del rublo, che continua a essere in calo. Anche poco fa il calo è arrivato quasi al 2%, a $56,8 al barile ormai, il petrolio che inizia a intravedere quasi quota 50. Faccio notare che solo 3-4 mesi fa viaggiava stabilmente sui 100, 109, 111 dollari al barile, quindi abbiamo un calo ormai sul prezzo del petrolio e del gas che viaggia in parallelo, che è di oltre il 40%. Dicevamo della Russia, il dollaro supera quota 60, cioè ci vogliono 60 rubli per comprare un dollaro e ci vogliono 75 rubli per comprare un euro. E questo anche sulla scia del timore degli investitori di nuove possibili sanzioni contro la Russia autorizzate nei giorni scorsi dal Congresso americano. Angela Merkel invece, la cancelliera tedesca, ha escluso che dal prossimo vertice europeo possano arrivare sanzioni verso la Russia, ma faccio notare che il rublo ha dimezzato il suo valore, 50% in meno da gennaio, solo nelle ultime due settimane ha già perso il 20%. E pensate che i rendimenti dei titoli di Stato russi a 10 anni sono vicinissimi a quelli del Ruanda, anzi hanno superato quelli del Ruanda, 6,8%, Ruanda 6,4%. Perché lo dico? Perché chiaramente in dottrina si dice che sopra il 7%, quando un titolo di Stato rende oltre il 7%, diventa molto molto difficile per un paese ripagare i debiti contratti, cioè se devi offrire un interesse di oltre il 7% sui prestiti che hai ottenuto per il tuo debito o chi ha acquistato il tuo debito, diventa quasi la soglia di non ritorno. Non ci siamo ancora, però oggi il governo ha tagliato il bilancio del 2015 del 10% in media, in seguito anche al brusco mutamento dello scenario economico. Ricordo che la Russia doveva crescere dell'1,2% l'anno prossimo, ma due settimane fa ha rivisto le previsioni, andrà in recessione l'anno prossimo dello 0,8%. Allora, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, vede un'economia tedesca ancora in una forma notevolmente buona. Nonostante dati deludenti, la debolezza secondo la Bundesbank dell'economia tedesca è comunque transitoria. E poi sostiene che l'Unione Europea è troppo permissiva con Francia e Italia e critica aspramente la decisione della Commissione Europea di concedere a Parigi e a Roma più tempo per rimettere in sesto i loro conti. La Bundesbank ricorda che la Francia è in procedura di deficit eccessivo dall'inizio del 2009 e ha già avuto due proroghe per una correzione. Ma ciò nonostante, il governo francese non ha intenzione di riportare il deficit sotto il 3% nel 2015, ma nel 2017. E poi Roma, a differenza di Parigi, non si trova in una procedura di deficit, non raggiungerà d'altra parte il pareggio di bilancio strutturale come è scritto nel patto di stabilità. Ora io non mi occupo di comunicazione delle banche centrali, non so se sia ortodosso o no che una banca centrale, invece che parlare del paese e del sistema bancario che amministra, si mette a parlare di quello che fa la Commissione Europea e l'Unione Europea nei confronti di Francia e Italia. A me, non so, io non ricordo la Banca d'Italia criticare la Commissione Europea per decisioni analoghe o criticare la Germania in maniera esplicita per l'andamento delle sue politiche economiche interne e l'assenza di investimenti. Boh, lascia sempre un po' perplesso. Cioè, la banca centrale tedesca, faccia la banca centrale tedesca, parli del sistema bancario tedesco, di come vanno le casse di risparmio, Deutsche Bank, le controllate, lo scenario economico, va benissimo. anche perché è molto ottimista rispetto ai dati che noi riceviamo, rispetto a quello che dice l'OCSE, i timori del Fondo Monetario Internazionale. Oggi invece il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto che si è occupato solo delle banche italiane, ha detto che in audizione alla Camera che è essenziale che le banche prestino i fondi che ottengono dalla Banca Centrale Europea all'economia, che la ripresa dei prestiti sarà comunque graduale, i prestiti alle imprese non riprenderanno prima della metà del 2015 e che i rischi di deflazione non possono essere ignorati perché l'andamento dei prezzi al consumo resta pericolosamente debole. Quello che ha avuto luogo alla fine è stata una necessità da parte della Banca Centrale di utilizzare tutti gli strumenti di politica monetaria convenzionali, portando i tassi di interesse praticamente a zero e aggiungervi degli strumenti di politica monetaria non convenzionale, tra i quali quello che cito qui, cioè queste targeted longer term refinancing operations, cioè delle operazioni di finanziamento mirate, di cui le prime due tranche si sono esaurite venerdì scorso, giovedì scorso, non ricordo, e acquisto di altri titoli o ABS o cover bonds, e in prospettiva acquisto di titoli to cure, quanto serve per riportare il bilancio della Banca Centrale Europea a livelli congruenti con una economia che risente in questo momento di una disinflazione eccessivamente forte, che sostanzialmente non è deflazione ma è un allontanamento consistente dall'obiettivo di stabilità monetaria, stabilità dei prezzi definito dalla BCE. Allora, c'è invece chi continua a irritare o a muoversi, ma a mio avviso come un elefante in una cristalleria. Mi riferisco al neo presidente della Commissione Europea Juncker, che non gliene va dritta una. Prima, la settimana scorsa, intanto lo scandalo LuxLeaks che lo coinvolge direttamente, sulle agevolazioni fiscali che il Lussemburgo offriva sotto banco a grandissimi gruppi. No, ma dico, è singolare che appunto lui, che ha fatto il premio per 18 anni, adesso parli di armonizzazione fiscale in Europa. Comunque, due, dicevo, la settimana scorsa lo scivolone sul Francia, Germania, Francia, Belgio e Italia devono stare attenti perché le conseguenze vi saranno se non fanno quello che diciamo noi, sono avvertite. E lo stesso ministro Padoan anche definì inaccettabili, insomma, quelle dichiarazioni. Poi Juncker ha corretto con il suo portavoce: massima fiducia nel governo italiano e francese. Oggi rischia di, o meglio, ieri ha rischiato di fare un grossissimo regalo a Tsipras e quindi alla sinistra greca, che va, si chiama Syriza, che va a elezioni, probabilmente andranno a elezioni a febbraio. Perché? Perché parlando della Grecia, Juncker ha detto: mi piacerebbe che la Grecia fosse guidata da persone che abbiano sguardo e cuore per i più poveri in Grecia, ve ne sono molti, ma anche che comprendano la necessità di processi europei. La mia preferenza sarebbe di vedere facce note a gennaio. Apriti cielo, nel senso che facce note vuol dire sostanzialmente l'attuale presidente Samaras o chi hanno già avuto come presidente, subito bombardato sui social network e anche attaccato duramente dall'opposizione greca. Infatti ha parlato Alexis Tsipras, ha detto: non abbiamo, i greci non hanno paura, non sono ostaggio di nessuno, e quindi tra l'altro Juncker ha anche dichiarato: non gradirei se forze estreme arrivassero al potere in Grecia. Voglio dire, sono tutte cose che un presidente della Commissione Europea non deve dire. In Grecia vincerà chi sarà eletto in maniera democratica, poi forze estreme mica sono forze illegali. Adesso io, uno può non essere d'accordo col programma di Tsipras, ritenere che sia una follia, che sia un suicidio, ma voglio dire, sempre di un programma democratico si tratta. Juncker, allora, quando è che ci ripigliamo, visto che ogni settimana lei imbrocca uno scivolone, visto che fa il presidente della Commissione Europea? Poi oggi infatti un portavoce della Commissione Europea ha detto: no, l'unica opzione a cui lavora la Commissione è di mantenere la Grecia nell'area euro, perché erano circolate voci di una Grexit, ossia di uno studio di una possibile uscita della Grecia dall'euro. Il commissario europeo agli affari economico monetari Pierre Moscovici ha detto che è ad Atene, ha detto: qualunque cosa succeda, l'unico scenario possibile e sostenibile per la Commissione è di mantenere la Grecia nell'area euro. L'impegno preso da questa commissione in risposta agli sforzi delle autorità del popolo greco è molto chiaro. Ecco, vediamo con dichiarazioni come quelle di Juncker di non aiutare, diciamo, chi in realtà vorrebbe far uscire la Grecia dall'Europa. Tra l'altro, secondo l'ultimo rapporto UNICEF, il 42% dei bambini greci vive in una condizione di povertà, quindi faccio notare che qualunque intervento proprio della Commissione Europea, che in Grecia è vista assieme a Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, sono i tre soggetti che fanno la troica, come anche il motivo di questo accanimento, di questo inasprimento, meglio stare tranquilli, meglio stare zitti. Chi se ne frega di quello che vuole Juncker come faccia, non è legittimato a dirlo. Non è che mi sta sulle scatole Juncker, dico alcuni ascoltatori, è che veramente sta facendo una gaffe a settimana. Questo fa il Presidente della Commissione Europea. Oltre che non avere nessun senso politico, io capisco che fare il premier del Lussemburgo magari non ti dia tutta questa grande... Però era Presidente dell'Eurogruppo. Cioè, in questo modo si avvantaggia chiaramente in Grecia, aumenta il consenso verso Tsipras. Se tu dici così e dai questa idea di fare il colonizzatore di uno Stato sovrano come è lo Stato greco. Vabbè, 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevamo, poi parleremo della parte tributaria di Roma. Parliamo subito invece di Roma, che si candida alle Olimpiadi del 2024. So che con quello che è successo e sta succedendo e sta emergendo dall'inchiesta sulla mafia a Roma, sulla terra di mezzo, diciamo, può sembrare strano, però l'Italia ha candidato Roma alle Olimpiadi del 2024. In realtà è Roma il centro del progetto, come ha spiegato il premier Matteo Renzi, ma altre città coinvolte. A questo è dedicato l'approfondimento dei 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi opera del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Oggi parliamo di sport, anzi parliamo di sport a livello più alto, a livello di Olimpiadi, visto che stamattina il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato che Roma e l'Italia si candideranno a ospitare le Olimpiadi del 2024. Diciamo subito che il cammino che porterà alla scelta della sede dei giochi sarà comunque lungo e complesso. Quella dell'Italia non è ancora in effetti una candidatura ufficiale e in ogni caso la scelta finale del CIO, che è il Comitato Olimpico, l'organismo che ha l'incarico di sovraintendere l'organizzazione dei giochi, non arriverà prima del settembre del 2017. È però bastato l'annuncio di Renzi per scatenare, proprio come in una partita di calcio, la sfida tra le tifoserie contrapposte, tra chi è a favore della candidatura e chi invece è assolutamente contrario. Vedremo come andrà a finire, vedremo se prevarrà chi considera in questa e chi vede in questa operazione una chance per dimostrare al mondo che questo paese può farcela, che può trovare l'orgoglio per gestire con trasparenza una vetrina mondiale così importante, oppure al contrario, come in fondo ci ricordano ogni giorno le inchieste su Roma Capitale o anche quelle sull'Expo di Milano, vedremo se prevarrà l'idea di chi vede nelle Olimpiadi solo nuove opportunità di spreco, di malaffare, di corruzione, di appalti truccati. Insomma, i rischi ci sono, è inutile negarlo, ma è vero che questo paese ha bisogno di reagire e forse sarebbe sbagliato rinunciare a priori alle Olimpiadi solo perché, come si dice, qualcuno potrebbe rubare. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. Allora, vedo molti messaggi su Juncker, non ho voglia, meno 2,80%, nel frattempo Milano va a chiudere sui minimi, un altro 3% di calo. No, sullo spread non ci sono particolari notizie, adesso è un'oretta che non lo guardo, non abbiate mela male, ma era intorno ai 142-143 punti. No, i timori è chiaro che sono di altro genere. Ragazzi, qua sta ripartendo lentamente, ma se non si mette uno stop prima sta ripartendo la speculazione sulla tenuta dell'Europa. adesso è pure sceso a 135, l'ho appena guardato lo spread. No, non è questo, è chiaro che mercoledì c'è il primo voto non determinante in Grecia, ma insomma l'orizzonte qua è febbraio. Per quello che modestamente ci permettiamo di dire a tutti i personaggi che rappresentano l'Europa di stare zitti, di parlare solo con i fatti, di non smetterla con queste dichiarazioni del cavolo che irritano i paesi, dando un'immagine anche estremamente litigiosa di un'Europa. Ognuno facesse il suo lavoro, no? Juncker, lei ha un piano da 300 miliardi, in cui in realtà ce ne sono solo 15. È un piano così, delle tre carte. Allora, ci faccia capire dove becca i soldi, come va sto piano, perché continua a prevedere 300 miliardi messi dai privati. Si occupi di queste cose, visto che lei è stato eletto con la speranza, anzi con la promessa che non avrebbe fatto quello che ha fatto nel passato, che la sua Europa sarebbe stata quella della crescita. Allora, su. Noi cerchiamo nel frattempo di continuare a raccontare anche elementi positivi dell'economia, lo stiamo facendo da settimane senza forzare, senza edulcorare la pillola, ma ci sono delle cose positive, ci sono gruppi che assumono, gruppi che fanno investimenti, e c'è un fenomeno che è in corso da un po' di anni, si chiama in inglese reshoring, dalla costa, cioè riportare a casa attività produttive che avevi delocalizzato o avevi portato comunque all'estero. È un fenomeno in crescita da alcuni anni che riguarda anche l'Italia. Non ci sono tantissimi dati, però secondo le ultime indicazioni il 70% delle rilocalizzazioni provengono dalla Cina e da altri paesi asiatici, meno poche dall'est Europa, solo il 10%. Dipende da paese a paese, in Spagna, Danimarca, Finlandia siamo già al 7%, in Germania solo non si va oltre il 2%. Siamo in collegamento con il professor Luciano Frattocchi, che è docente di ingegneria gestionale all'Università degli Studi dell'Aquila ed è uno dei massimi esperti e studiosi del fenomeno. Buonasera. Buonasera dottor Baresoni, buonasera ai suoi ascoltatori. Allora, mi faccia capire una cosa, poi dopo il metro, la pubblicità, le chiederò anche alcuni esempi concreti, però è un fenomeno, diciamo, non di quelli macro, ma in atto continuamente in vari paesi europei? Assolutamente sì, pensi solo che il Premier Cameron nella Gran Bretagna ha candidato la Gran Bretagna a diventare il paese europeo padre del reshoring, e lo ha detto a Davos a gennaio 2014, quindi addirittura ci si è giocato la sua politica industriale. Altri paesi che ci stanno investendo sono la Francia, anche loro in maniera significativa, chi ha iniziato da più tempo è la Germania. Dove le percentuali però sono basse di aziende che rientrano in Germania per produrre in Germania, no? Assolutamente, ma quella percentuale è sul totale delle aziende che negli ultimi 30-40 anni hanno delocalizzato. Se vediamo un fenomeno di 5-6 anni rispetto ad uno di 30-40, sono sicuramente basse. Allora, i motivi, e anche in Italia, poi insomma, citiamoli subito, c'è un caso nella Bassa Reggiana a Fabbrico, dal 2011 si è ricominciato a produrre e sostanzialmente assemblare le trasmissioni dei motori McCormick, famiglia Morris, se non ricordo male, che fino ad ora venivano fatti in Francia e in Gran Bretagna, 50 nuovi posti di lavoro e incremento del fatturato del 16%. L'AQ, azienda di Montebelluna Treviso, che produce scarponi da montagna, dopo aver delocalizzato il 90% della produzione in Romania, dove c'è un costo del lavoro del 40% inferiore rispetto all'Italia, ha rimpatriato il 30%. Ecco, il motivo qual è? Le agevolazioni messe in atto dai governi mi sembra poche, o un motivo più profondamente industriale, cioè la qualità della produzione? Tre grandi motivi per l'Italia scendono a due, sicuramente qualità, costi e tempi di produzione e di ottenimento delle produzioni. Sicuramente l'effetto made in, e quindi la qualità e il valore percepito dei prodotti italiani, ha aiutato tantissimo, specialmente nel settore calzature e nel settore della moda. I costi logistici, che non sono banali, specialmente per quanto riguarda la Cina e il sud-est asiatico, la riduzione dei tempi di trasporto. Una nave veloce Cina-Europa ci mette 3-4 settimane. In alcuni settori è diventato impossibile. Pensiamo al cosiddetto fast fashion, e quindi a modelli di business tipo Zara. E qual è l'elemento su cui invece l'Italia non può contare? Sicuramente l'Italia rispetto ad altri paesi non riesce a contare sul basso costo dell'energia, ci sono molte imprese che vorrebbero tornare ma non è possibile per loro perché sono grandi consumatori di energie ma non così grandi di avere delle facilitazioni, e secondo purtroppo abbiamo un costo per unità prodotta, il che significa non solo il costo orario del lavoro ma anche la produttività, che non è a livello per esempio di quello che succede specialmente negli Stati Uniti. Questi sono ancora due elementi su cui si può lavorare. Allora, dopo il metro, la pubblicità, vorrei capire appunto che cosa spinge e ai problemi, che, perché bisogna anche stare attenti alle generalizzazioni, no? Non può dire che improvvisamente la qualità in alcuni paesi non c'è più, però è chiaro da quello che noi vediamo che soprattutto magari nelle parti finali della lavorazione, non solo, ci può essere una convenienza forte economica a riportare in loco la produzione. Poi vorrei anche capire se lei già vi accennava, se riguarda i settori in maniera indistinta o ci sono dei settori in cui questo sta emergendo come da un lato problema e quindi opportunità per l'Italia poi di riavere alcune produzioni manifatturiere in casa. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Intanto la borsa ha chiuso con un meno 2,81% di calo, pesante il settore bancario, Monte dei Paschi meno 8%, Unicredit meno 4,70%, Intesa meno 4,33%. Meteo. Allora, 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, cioè, qualcuno mi dice, ma dovete, oltre che parlare di costo del lavoro alto, dovete parlare di eccessiva tassazione del lavoro, che lo rende troppo costoso. Avete ragione, avete ragione. È chiaro che il costo del lavoro da noi è alto non per quello che prende in busta paga il lavoratore, diciamo una tutta, per il famoso cuneo fiscale, ne abbiamo parlato decine di volte e quant'altro. Ed è ovvio che un incentivo al rimpatrio di un'azienda è anche il costo del lavoro e quindi il carico fiscale. Però su questo, per non banalizzare ma non usarlo come unico elemento, professor Fratocchi, visto che tanto comunque l'incentivo fiscale adesso non c'è, il motivo vero, lei ne citava alcuni, ma nel caso italiano, questa volta non guardando all'estero, i motivi dominanti quali sono stati? Sicuramente nel caso italiano c'è un discorso sulla qualità della produzione. Consideri che c'è un pubblico a livello mondiale di persone ricche che in Cina sono un 2%, un 3%, ma su grandi numeri di popolazione, che vuole prodotto italiano, lo paga al 50% in più, sempre nella fascia alta, ma vuole una produzione certificata di filiera. Per cui tutta italiana. Aziende, tutta italiana, alcune aziende sono, mi permetta il termine, costrette a rientrare, costrette nel senso buono del termine. E questo sul settore fashion, calzature, sta diventando sempre più importante. Quindi non è solo la qualità della produzione, ma la percezione che un prodotto interamente italiano ha in certi mercati internazionali. Quindi sull'uso, sulla fascia lusso, che ripeto però ha dei numeri ormai quasi da mercato di massa, lì c'è un obbligo a rientrare perché sennò non giustifichi il prezzo, da questo punto di vista. Però riconoscendo che la qualità del lavoro manifatturiero italiano è una qualità quasi artigianale in senso nobile, no? Assolutamente, se lei pensa che la Francia, che praticamente ha distrutto la sua filiera nel calzaturiero ma anche nell'abbigliamento, viene a produrre in Italia, se non addirittura, come ben sappiamo, viene a comprarsi le aziende italiane e tiene i marchi, e tiene i marchi. Riconosce, nonché i marchi ma anche la capacità produttiva, le posso assicurare, non è solo un'operazione di marketing. Ecco, il fatto che la maggior parte delle rilocalizzazioni arrivi dalla Cina e non dall'est Europa, come si giustifica, professor Fratocchi? Allora, si giustifica in due modi. Uno di natura storica. La prima delocalizzazione italiana è stata nell'est Europa, ma poi molti si sono spostati, hanno fatto un offshoring di secondo livello, quindi una delocalizzazione di secondo livello. Quindi ciò che inizialmente era nell'Europa dell'est talvolta è passato oltre. E il secondo aspetto importante è che la differenza di qualità con la Cina è sicuramente più significativa, nel senso che nel lusso a quel punto o il rientro lo si fa in patria o un passaggio intermedio è poco utile. Ma ci sono anche altri elementi, mi riferisco adesso senza passare come un pendolo, ripeto, però abbiamo visto tanti stabilimenti, io ne ho citati alcuni, ma c'è anche Alstomar che ha fatto investimenti in Italia e ancora la Fiam per le batterie d'auto, insomma potrei fare elenco di tutti i vari dipendenti, però c'è anche un problema di flessibilità nel senso sulla produzione o solo di qualità e comunicazione? Nei casi in cui lei ha citato, alcuni di quei casi sono nati da un intelligente rapporto tra l'impresa e le organizzazioni sindacali. Ci sono stati dei contratti specifici che hanno visto diminuire, per esempio, gli incentivi a pioggia sui tutti i dipendenti, una valorizzazione del merito, riduzione del costo del lavoro intelligente, il che vuol dire remunerare in funzione di quello che l'azienda riesce a fare, creando nuovi posti di lavoro. Un caso fra tutti è quello sicuramente della Fiam che lei ha citato, e lì le posso assicurare che tutte le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto quell'accordo e il referendum è passato perché le organizzazioni sindacali concordavano che era opportuno rivedere il costo. Abbiamo riportato posti di lavoro, non solo sono diminuiti ma addirittura sono aumentati. Il caso di Alstomar a cui lei faceva riferimento, per esempio, si sono creati posti di lavoro che erano scomparsi a seguito del fatto che un altro produttore di tonno aveva abbandonato quella location. Della Sardegna. Esatto, allora nel caso specifico per quello che riguarda Alstomar, Vito Gulli, insomma è l'azienda di maggioranza del gruppo, però hanno praticamente costruito uno stabilimento nuovo di Zecca in dove era stata chiusa la fabbrica del tonno Palmera, se era quella a cui lei faceva riferimento. Assolutamente. E hanno costruito uno stabilimento nuovo di Zecca assumendo i 200 lavoratori che la Palmera aveva lasciato a casa e tra l'altro diventeranno a questo punto anche di più nei prossimi anni. Nel caso della Fiam invece, lo stabilimento alla periferia di Avezzano, Monte La Masica, 40.000 abitanti, allora gli operai lavorano su 3 turni, 24 ore al giorno, per cui a ciclo continuo, e la Fiam realizza all'estero il 70% dei suoi 550 milioni di fatturato, ma fino a 5 anni fa aveva una fabbrica in Boemia, vicino allo storico impianto della Skoda. Adesso ad Avezzano ci sono 140 dipendenti in più rispetto ad allora, e quindi sono altri casi, no? Oltre a quelli che citavamo in apertura di Fabbrico e di Montebelluna. Permetta poi di dire con un prodotto ad alto contenuto di innovazione, sì, perché stiamo parlando della fascia alta delle batterie stop and go, quindi anche l'aspetto innovativo è importante, come anche è stato evidenziato in recenti analisi, per esempio quella di Anie, in cui la vicinanza tra l'Italia e i centri di ricerca e sviluppo è il motivo riportato da circa il 25% delle aziende intervistate. È vero, è verissimo, tra l'altro poi citavo la ACU, lì sarebbe anche bello capire cosa è successo al distretto degli scarponi da sci. Noi abbiamo creato i primi scarponi al mondo prestampati, poi tutti venivano a produrre da noi, ci siamo persi un altro distretto, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Ripeto, abbiamo citato alcuni casi, però c'è una tendenza in atto con le caratteristiche che abbiamo detto, cioè sulla fascia alta della produzione, laddove emerge il valore artigiano della nostra produzione manifatturiera, E poi c'è anche una flessibilità in più e, come lei ricordava, anche degli elementi di carattere logistico sui costi della logistica e del trasporto, oltre che di controllo. Certo, restiamo handicappati e penalizzati sui costi fissi, energia, e sui costi, diciamo così, variabili, tassazione del singolo addetto. Grazie a Luciano Frattocchi, docente di ingegneria gestionale all'Università degli Studi dell'Aquila. Traffico. Di nuovo in diretta, adesso arriviamo alla borsa, abbiamo tutta la seconda mezz'ora dedicata ai mercati italiani, europei e anche quello russo inteso come mercato valutario, meno 2,80%, su Monte dei Paschi vi dico quello che stanno diffondendo le agenzie di stampa, anche quelle di carattere economico-finanziario, origini speculative, che vuol dire tutto e niente, meno 8% il titolo. Vi arriviamo, però siccome stavamo parlando della tassazione sul costo del lavoro, su quello che permette il reshoring, cioè riportare in Italia le attività manifatturiere in questo caso, ogni tanto qualche buona notizia c'è, ragazzi, non possiamo certo inventarle, ma quando le troviamo è giusto darle. Dicevo, su questo, se vogliamo, c'è ancora un'ulteriore buona notizia, perché l'esecutivo ha deciso di congelare la cosiddetta local tax, che avrebbe dovuto sostituire, ma non si può chiamarla tassa locale, ma perché tutte queste tasse in inglese? Non è che pesino meno se sono in inglese. Comunque, la tassa locale, che dal 2014 avrebbe sostituito IMU e TASI. Perché questo? Perché c'era il rischio alto che i comuni alzassero l'aliquota dall'attuale 2,5 per mille al 6 per mille. Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. Dove c'è una tassa c'è Trovati. Sì. Allora, scusa, ma due comprensioni. La prima, ma era sicuro che i comuni, nel passato abbiamo visto molti comuni scegliere la parte più alta, avrebbero alzato al 6 per 1000, perché alzare al 6 per 1000 vuol dire più che raddoppiare l'aliquota IMU e TASI di pertinenza comunale, prego. No, non era sicuro, però il rischio c'era e soprattutto c'era il rischio che quella, come dire, magari non si usava tutto, non si sarebbe usato tutto lo spazio fiscale dato dalle norme fino a 6 per 1000, ma comunque si sarebbe cresciuti oltre i tetti di quest'anno. Per esempio a Bologna era già previsto il 4,3 per 1000 per l'anno prossimo, quindi insomma più alto di quest'anno. Il governo ha congelato la possibilità di aumenti e questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che però questo rinvio della tassa unica, chiamiamola tassa locale, tassa comunale che è meglio, fa sì che l'anno prossimo si replichi sostanzialmente il caos di aliquote, più di circa 200.000 detrazioni, parametri, bla bla bla, che è stato determinato dall'incrocio di IMU e TASI quest'anno e che i contribuenti stanno risperimentando in questi giorni in vista della scadenza di domani. Allora, mi chiedete, nel frattempo l'azienda di fabbrico nella bassa reggiana che ha ricominciato a produrre è le trasmissioni di motori McCormick, famiglia Morra, la scelta ha generato 50 nuovi posti di lavoro con un incremento del fatturato del 16%, invece c'è un ascoltatore che continua a chiedermi se è vera la notizia dell'aumento IVA dal 10 al 22% sui pellet, leggo bene? È un emendamento presentato dal governo alla legge di stabilità, quindi al momento è vera. Pure sui pellets è preparatissimo. Ma è un emendamento del governo. Speravo che ti coglierti in difficoltà, invece non ce la faccio. Vabbè. Assolutamente no. Allora, questo per quello che riguarda la local tax. C'è un altro problemino, mi sembra di capire, perché vabbè, oggi ho già spiegato e ripreso in Commissione Bilancio al Senato l'esame degli emendamenti, verranno votati alcuni stanotte, stasera, ma soprattutto il grosso tra martedì sera e mercoledì mattina, e infatti la legge dovrebbe andare in votazione in aula al Senato giovedì. C'è forse la riduzione di qualche punto della tassazione sui fondi pensione, che inizialmente era alzata al 20%, dall'11,5% si parla di una soglia al 17%, Gianni, se ho ben visto. Sto lavorando a questo, è una delle partite ancora da chiudere. Ecco, però, tornando all'IMU e TASI che resteranno, quindi non vi sarà più la tassa locale, da quello che noi abbiamo visto, i mancati incrementi lasceranno i comuni scoperti per circa 625 milioni di euro, ma è vero? Sì, qual è il punto? L'anno scorso questo tetto di aliquota sulla prima casa, 2,5 per mille, che poteva crescere al 3,3 se c'erano detrazioni, era stato finanziato dal governo con 625 milioni di euro. Perché? Perché noi con un effetto domino di anno in anno ci portiamo ancora dietro gli effetti finanziari dell'aumento dell'IMU sull'abitazione principale quando c'erano, cioè nel 2012. Allora cosa succede? I comuni che avevano l'aliquota IMU, le aliquote IMU al massimo, non avrebbero potuto far quadrare i conti con i nuovi tetti di aliquota, quindi il governo ha messo 625 milioni. Se si confermano i tetti di aliquota, ma altri 625 milioni di euro non ci sono, questi comuni hanno un taglio ulteriore sostanzialmente pari al mancato fondo. In cifre primeggia Milano, che quest'anno nel 2014 aveva ricevuto poco meno di 90 milioni, ma c'è anche Torino, Roma, insomma tutte le grandi città dove l'aliquota IMU era già salita avevano ricevuto questo aiutino statale per far quadrare i conti. Di soldi per nuovi aiutini non ce ne sono e quindi questi conti che sono sopravvissuti hanno superato quest'anno con un po' di difficoltà, l'anno prossimo hanno un ulteriore ostacolo. A Milano naturalmente il problema è più grave, un po' perché la cifra appunto 90 milioni di euro per una città sola non è poco, hanno appena dato il via libera alla M4, è l'anno dell'Expo eccetera eccetera, aspettiamoci diciamo scintille. Sì, ho visto anche 30 milioni dati di nuovo alle città del terremoto del 1990, anche lì uno può dire quello che, cioè, perché io non metto in dubbio, però se ho ben visto si tratta di in molti casi di finanziamenti così abbastanza contestabili. Ancora due domande chiedono, allora l'IVA sul pellet, ma che è da riscaldamento tutti è un emendamento, l'ho appena chiarito, trovati dall'11 al 22%. C'era un'altra domanda che riguardava l'aumento dell'IVA e altri aumenti dell'IVA, però diciamo rispondiamo visto che siamo in addirittura d'arrivo con il GR, rispondiamo dopo. Tutti sul pellet, ma che è, l'Italia è invasa da gente che usa il pellet per riscaldamento, io non lo sapevo. Comunque è un emendamento, non c'è ancora nulla, se arriverà l'IVA sulle bare, ma c'è l'IVA sulle bare? Aumenta l'IVA su tutti, sì, no, dico, so che c'è l'IVA sulle bare, ma aumenta? No, questo, ecco, su questo non so risponderti. Ecco, meno male, almeno forse non è di tuo interesse, diciamo così, a breve. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, GR24. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, ha aggiornato i nuovi minimi storici in Monte dei Paschi di Siena, precipitato oggi di un 8,14%, dunque la chiusura è a 52 centesimi di euro. Non è solo il Monte dei Paschi oggi andare male, ma è sicuramente il titolo che è andato peggio di tutti. Unicredit ha perso il 4,70, Intesa San Paolo il 4,30, Ubibanca il 3,70, Banco Popolare meno 3,30, Pop Emilia Romagna meno 2,5%, si è salvato oggi Toz più 1,50, Fiat più 0,50, la Popolare di Milano più 0,30%. Devo dire che tra i non bancari ST Microelectronics meno 3,80% come Pirelli e World Duty Free meno 3,5% come Eni e Finmeccanica, Unipolsai meno 3,40, A2A meno 3 come Mediobanca, il 2,60 lo perde Snam e anche Prismian. Allora, restiamo un attimo in attesa col Monte dei Paschi e andiamo al commento generale su tutto il resto del mercato. Faccio notare che Milano ha perso il 2,80, Parigi il 2,5, Francoforte il 2,72, Londra meno 1,90, l'America lo 0,60%. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ma che è successo? Perché dunque lo spread italiano è a 136-137, abbiamo visto sì, qualche battibecco sulla Grecia, mercoledì c'è il primo voto, abbiamo anche invitato con molta modestia e con molta diciamo, educazione il Presidente della Commissione Europea Juncker a stare zitto se non sa quello che dire, cosa dire e se continua a fare gaffe alimentando poi l'orgoglio greco e la probabile vittoria di Tsipras se si va a elezioni. Però insomma, che cosa è successo di così grave? Poi arriviamo dopo al Monte dei Paschi di Siena. Ma allora, oggi gli operatori segnalavano una generale avversione al rischio. Vabbè, c'è la crisi greca, ma c'è anche la questione Mosca. Che il rublo che è precipitato di nuovo, lo dicevamo in apertura. Sì, il certo. Rublo, lo stesso listino, perché l'indice denominato in dollari ha ceduto il 10%, quello in valuta locale il 2,37%, però insomma sono cali importanti. Cosa succede? Che si torna ad acquistare titoli di Stato, infatti i rendimenti scendono quelli di Spagna e Italia, ma scendono anche ad esempio quelli della Germania, dell'Austria, dell'Olanda, che sono i paesi considerati più solidi, per cui si compra bond e si vendono azioni. E questo lo si vede anche sulle banche. In genere abbiamo visto in passato come quando lo spread scendeva, quando il rendimento dei titoli scendeva, le banche ne beneficiavano. In questa fase invece no, sono proprio le banche le più colpite, perché c'è una generale avversione al rischio. Sì, devo dire che c'è in tutta Europa, visto il calo di Francoforte, appunto il 2,70% e Parigi il 2,5%. Non ci sono grandissimi, cioè perfino Saipem che procedeva bene, poi alla fine ha fatto più 0,24%, un po' di ricopertura male oggi tutti gli energetici, e li citavamo, però la cosa che mi lascia perplesso è che proprio sul Monte dei Paschi di Siena e sulla Cassa di Risparmio di Genova era arrivata, a parte il fatto che vedo anche titoli che hanno perso, Airiali 14,30%, Arc Real Estate 16,50%, la peggiore delle banche dopo il Monte dei Paschi però è Deutsche Bank meno 7,40% e il Credito Valtellinese meno 7,20%. Dicevo, Monte dei Paschi e Cassa di Famiglia di Genova avevano ottenuto il via libera dalla Banca Centrale Europea ai piani di aumento di capitale, poi manca ancora la commissione. Per cui non è che tutte queste notizie. Allora c'è Marco Ferrando in collegamento con noi, che sta lavorando proprio per il pezzo su Domani del Sole 24 Ore sulla vicenda Monte dei Paschi. Marco, buonasera anche a te. Buonasera. Ecco, è arrivata qualche notizia che ci è sfuggita, perché insomma Guido Marino faceva notare la versione per il rischio, tutti a comprare titoli di Stato. E vabbè, ma il Monte dei Paschi perde l'8,14%, la banca che fa peggio nel FTSE MIB è l'Unicredit che si avvicina, mi scusi, della seconda banca come calo, ma perde il 4,70%. Ma sì, diciamo che le notizie sul Monte sono quasi quotidiane. Tu citavi prima la novità di venerdì dell'approvazione, della prima approvazione da parte della Banca Centrale Europea del piano, in cui peraltro è compreso un grosso aumento di capitale. Questo sicuramente è un elemento che ha spinto al rialzo l'andamento nella prima parte della giornata. Poi quando i bancari hanno girato, il Monte ha girato il doppio. Questo perché ormai da mesi il titolo è molto più volatile della media e si porta dietro sicuramente una dose di speculazione decisamente superiore alla media. Cioè in due mesi abbiamo calcolato il Monte ha perso 2 miliardi, praticamente ha avuto la capitalizzazione dimezzata. Basta veramente neanche una voce, un bisbiglio a far decollare oppure precipitare il titolo. Non dimentichiamo, altro elemento di giornata è un presunto interessamento cinese su alcune banche europee, tra cui il Monte Paschi. Anche lì insomma, ci stiamo lavorando, la pista sembra ancora molto generica, anche questo forse ha contribuito. Però diciamo, notizie, quello che è importante, mi dispiace deludere un ascoltatore che dice no, dovete dare la notizia, ma se non le troviamo che facciamo, le inventiamo sul Monte dei Paschi perché piove? Non so, vuol dire, esistono, poi qualcuno forse le saprà, non le persone che abbiamo contattato noi, non le agenzie finanziarie economiche che stanno battendo sostanzialmente la stessa cosa, e cioè via dalla speculazione, via dal rischio, e se vogliamo, diciamo, il comune denominatore, come spiegava Guido Maurino, è un'Europa che per via della vicenda greca, io non voglio avere dei déjà vu, però nel 2011 tutto è iniziato così, per via della vicenda greca, gli operatori e della litigiosità europea e di Juncker che non sta zitto, della Bundesbank che bacchetta di nuovo Francia e Germania e dei vari paesi, insomma di questa Europa che è senza una guida, diciamocela tutta, anche perché ha messo un vecchio presidente del Consiglio del Lussemburgo a fare l'uomo della Germania in Europa, e male hanno fatto Italia e Francia a fidarsi di sto piano per come si sta comportando. Comunque, un'Europa debole in cui mancano i leader, forse di nuovo torna a bisticciare, anche ripeto oggi la Bundesbank è tornata a dire che Francia e Italia hanno avuto troppo dalla Commissione Europea, che sbaglia la Commissione Europea, e insomma tutto questo dà un'idea di confusione, si vende sul rischio e si va appunto sui titoli di Stato, non a caso lo spread è in calo. Grazie Guido Maurino, oggi veramente io non voglio aggiungere altro perché è inutile trovare notizie che non ci sono. Grazie Guido Maurino di Radio Colle Sole 24 Ore, a Marco Ferrando del Sole 24 Ore anche lui. Adesso il traffico e poi l'ultimo approfondimento riguardo oggi la Russia, perché veniva citata come caso, e certo che c'è. Ormai il rublo ha aggiornato un nuovo minimo storico, ha perso il 50% del suo valore da inizio anno. e 18 minuti e 18 secondi per la precisione, un rientro così ce lo giochiamo. Allora, ultima parte di Focus Economia. Tra i vari fattori, ripeto, non ce n'è nessuno di determinante, ma c'è comunque una Russia che si sta avvitando su se stessa. Oggi per la prima volta nella storia il dollaro ha toccato quota 60, o meglio ci vogliono 60 rubli per comprare un dollaro e ci vogliono 75 rubli per comprare un euro. Pensate che al di là del 50% che ha perso da inizio anno, la valuta russa nelle ultime due settimane ha perso il 20% e i rendimenti dei titoli di Stato russi sono al 6,8%, cioè un livello rischiosissimo. Si dice che oltre il 7-7,5% tu non riesca più a ripagare i tuoi creditori come Stato. Sono a un livello più alto di quello che deve offrire il Ruanda per trovare finanziatori per il suo debito. I BTP ruandesi, che non so come si chiamino, a 10 anni sono al 6,4%. Allora, dottoressa Claudia Segre, che è segretaria generale dell'Asium Forex, esperta di paesi emergenti anche e soprattutto di Russia, buonasera. Buonasera. Senta, la cosa che preoccupa di più qual è? Perché abbiamo visto che per esempio non è tanto l'esposizione estera del debito sovrano russo, che sono circa 50 miliardi di dollari, ma gli operatori e gli analisti sono molto preoccupati dai contratti con controparti occidentali delle aziende private russe che varrebbero 500 miliardi di dollari, di cui 130 in scadenza già nel 2015. Temete che le aziende russe non riescano a pagare questi contratti, visto che nel frattempo il rublo si è dimezzato? Ma allora, più che la paura che non possano onorare i contratti, che direi abbastanza limitata, basti vedere gli interventi che lo Stato fece anche durante i periodi più acuti della crisi, visto che come titoli e come rublo siamo tornati ai livelli del 98, di fatto la preoccupazione è se a fronte delle sanzioni che sono state ulteriormente approvate dal Congresso americano, i russi non inizino ad andare oltre il blocco di South Stream, e quindi si parla già di un rialzo dei prezzi delle esportazioni di grano oltre i limiti e di tutte quelle manovre che cercheranno di compensare questa perdita di valore del rublo che avete citato. E quindi c'è quello e anche altre torsioni, ma Angela Merkel oggi ha assicurato che nel prossimo Consiglio Europeo non vi saranno ritorsioni, ma il timore resta, come lei già accennava, su quelle americane soprattutto. Sì, infatti quello che ci siamo già detti un mese fa è proprio questo, l'errore dell'Europa di andare a ruota dell'America quando non può permetterselo, non solo per livelli di crescita ma proprio per i rapporti stretti che ci sono non solo dal punto di vista energetico con la Russia, non fa altro che esacerbare la situazione con la Russia e per le nostre PMI essere veramente un grosso problema come per gli altri paesi satellite legati alla Russia. Ecco, sulla Russia, al di là delle sanzioni, che poi uno può dire legittime perché l'atteggiamento, uno può ritenere inaccettabile l'atteggiamento della Russia nei confronti dei filorussi ucraini, ma qui si sta scatenando una specie di tempesta perfetta, perché da un lato abbiamo il rublo in continuo calo, dall'altro continua a calare anche il prezzo del petrolio, perché oggi si sta avvicinando ai $50 al barile, a 54, e questo peggiora ulteriormente, dottoressa Segre, quella che è la bilancia commerciale russa. Assolutamente, tenga anche conto che gli Emirati Arabi stasera hanno confermato che non vi sarà nessuna riunione straordinaria dell'OPEC, che il prezzo può scendere a $40 e quindi ulteriormente si aggrava la situazione e la proiezione dei dati di bilancio della Russia. Dal suo punto di vista, visto che la Russia ha già annunciato che il prossimo anno andrà in recessione, non più in crescita economica, la Banca Centrale Russa ha già utilizzato quasi 100 miliardi di dollari per contrastare inutilmente il crollo della valuta russa, di cui 50 miliardi li ha immessi comprando rubli e vendendo dollari e euro negli ultimi 2 mesi. Ora, secondo lei c'è qualche misura che si può fare per tamponare, o assisteremo a nuovi aggiornamenti di record di giorno in giorno, di record negativi del rublo sul dollaro e sull'euro? Ma confermo quello che le ha detto, che non ci sono problemi dal punto di vista del debito estero, ma qualsiasi manovra della banca centrale, come rialzo al 10,5% dei tassi fatto l'11 dicembre, servono solo nel brevissimo termine. Ci vogliono manovre differenti, anche perché i flussi di capitale stanno uscendo dal paese, e quindi quella previsione del meno 4,5% nel 2015, che ha fatto un po' crollare tutti i mercati, rischia di avverarsi e essere un vero grosso enorme problema per il prossimo anno per gli investimenti. Ma visto che lei analizza la Russia anche dal punto di vista politico, ma c'è speranza che Putin su questo, insomma, capisca che il gioco inizia a diventare un po' costoso, un po' caro per la Russia e per lui, e quindi va bene l'appoggio ai filonazionalisti russi, ucraini, ma insomma qui il paese si sta avvitando in una recessione, oppure secondo lei, diciamo, la forza della politica estera avrà il sopravvento su quella delle valutazioni di carattere economico? Ma la partita che si sta giocando è solo in apparenza quella dell'orgoglio di Putin. Qui si sta giocando una partita geopolitica in cui si intreccia anche la questione siriana, il legame con Assad ed evidentemente anche in parte la questione medio orientale israelo-palestinese. Quindi certamente la Russia è una pedina che gli americani, secondo me, hanno sottovalutato questo gioco, non solo valutario ma soprattutto commerciale. Mettere alle corde la Russia, ribadisco, è un gioco che è sfuggito di mano da un punto di vista geopolitico, anche se la resistenza russa da un punto di vista delle riserve valutarie c'è assolutamente, sono altre le complicazioni che andranno a coinvolgere tutti i paesi limitrofi e anche i conflitti che a causa di questo verranno causati, tenendo conto che poi la Russia ha fatto ultimamente grossissimi accordi con India e Cina e quindi è forte di questa nuova alleanza. E mi dica un'ultima cosa, dottoressa Segre, lei che si occupa anche molto di rendimenti, il fatto che il BTP, a parte che un ascoltatore ci ha spiegato che il BTP del Ruanda si chiama Rudo, ora sappiamo anche questo, ma il fatto che il BTP russo a 10 anni abbia, quindi io lo chiamo BTP per far capire a tutti, è il titolo decennale russo a 10 anni, si avvicina al 7%, al 6,8%, quanto è preoccupante? Cioè può essere solo una fiammata, ma in realtà la Russia non va a ripagare il debito a questi livelli, e qual è la soglia dove lei potrebbe iniziare a dire a questo punto si rischia di essere in un punto di non ritorno? Ma dirò di più, tra altre cose il rendimento del decennale del bond russi sono andati oltre il 13,1% dopo il crollo oggi delle azioni russe, quindi il punto di non ritorno ci sarà se vi sarà un'azione concertata delle case di rating e un'esplosione dei CDS, quindi se il deflusso di capitali andrà a incidere nettamente sul rapporto tra l'esborso finanziario per difendere l'economia e i danni di questa caduta in recessione. Quindi diciamo che non è una questione del 2015, non è una questione probabilmente neanche del 2016, ma sono più le ripercussioni che rischia di avere l'Europa e quindi di non potersi giocare quella ripresa che tutti auspicavano nel 2015. Quindi lei non vede un problema, per far capire a tutti, immediato nella tenuta dei rendimenti dei titoli di Stato russi a 10 anni? In questo momento se lo possono permettere, ripeto, l'avvitamento ci può essere se dovesse esserci un uno spike, quindi un movimento molto veloce sui credit default swap, e quindi se gli hedge fund dovessero iniziare a giocare in maniera speculativa contro i CDS russi portandoli alle corde. Per adesso non è avvenuto, e se non è avvenuto è perché evidentemente molti credono che ci possa essere un accordo in extremis o un compromesso di fatto, e quindi questo compromesso possa recuperare la situazione soprattutto per le quotazioni energetiche. Tirare alla corda anche sui prezzi del gas con la Russia probabilmente non conviene neanche agli americani. Non come neanche gli americani. Grazie, grazie a Claudia Segre, segretario generale dell'Assium Forex, appunto esperta di paesi emergenti, soprattutto di Russia. Oh, mi fate notare che non ho dato i migliori e i peggiori, avete ragione, oggi era più facile dare i peggiori. Comunque, Ambro Mobiliare più 7,60%, Trevi Finanziare più 5,20%, CIA più 4,20%. E poi primi sui motori più 3,70, peggiori abbiamo detto Ark Real Estate meno 16, High Real meno 14, Cofide meno 9,60 e poi appunto Monte dei Paschi meno 8, Softec meno 7,80, Deutsche Bank meno 7,40, Credito Valtellinese meno 7,20%. Allora, è iniziata bene la settimana, poi mercoledì abbiamo il voto in Grecia e poi si andrà avanti così, vedremo il primo voto in Grecia, attenzione, primo voto, non le elezioni in Grecia, il voto del Parlamento greco, il primo, hanno tre tentativi se non ricordo male. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.